Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati. Nessun luogo è lontano. Anche quest'oggi la squadra: Miriam Lucchetti, Massimo Brugnone in redazione, Carmelo Lauricella alla parte tecnica. Le coordinate per interagire con noi ve le ricordo: la mail nessunluogo@radio24.it, gli sms 349-238-6666. Poi siamo su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, infine su Twitter, Nessun Luogo 24. E vi invito fin da adesso a iniziare a digitare commenti o suggestioni sul tema di quest'oggi. Gruppi, partiti di estrema destra che proliferano in Europa. Da Alba Dorata a Jobbik, dentro e fuori dal Parlamento, più o meno sull'orlo della legalità nel caso dei gruppi più militanti. Guadagnano consensi, cavalcano e proclamano xenofobia, puntano il dito sugli stranieri, spesso sull'Islam. In alcuni casi ricorrono alla violenza, quasi sempre a discorsi incendiari. In altri casi combattono contro le banche, si ispirano a un nazionalismo forte. Oggi, a Nessun Luogo Lontano, l'Europa in nero. E per capire meglio un complesso fenomeno che, lo anticipo, ha varie sfumature di grigio, e mi si perdonerà il gioco di parole, partiamo dalla cronaca più recente e partiamo dalla Germania e vi andiamo grazie a Ambros Weibel, giornalista del quotidiano Tageszeitung. Ambros, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno Giampaolo. Allora, partiamo da questa recente operazione della polizia tedesca che in Vestfalia ha portato a numerosi arresti, massiccia operazione, ritrovamento di materiali di propaganda nazisti, a pochi giorni da quello che è l'anniversario, il 1 settembre del 39, l'invasione della Polonia. Pugno duro delle autorità su alcuni gruppi neonazisti. Che cosa sta accadendo in Germania, Ambros? Beh, in Vestfalia sono stati tre gruppi che dal ministro degli interni della Vestfalia sono stati sciolti, sono cosiddetti camerati nazisti, o si chiamano anche resistenza nazionale. Era anche ora che questi gruppi venissero vietati, perché è da moltissimo tempo che hanno terrorizzato un quartiere, soprattutto a Dortmund. Hanno anche cercato di infiltrarsi fra i tifosi, no, del Borussia Dortmund, della squadra calcistica. Sì. Quali valori, oltre a richiami nostalgici al Terzo Reich, perché nelle foto che abbiamo visto rilasciate dalla polizia vi erano proprio delle icone di Adolf Hitler, cioè c'erano dei richiami evidentemente, no? Evidenti a quel periodo, quali altri valori vengono propugnati da questi gruppi neonazisti? No, direi che questi gruppi lì sono proprio neonazisti veri e puri. Non, in Germania spesso si parla di questi gruppi, anche del partito della NPD, di un partito di estrema destra. Questo, secondo la mia opinione, non è vero. I camerati sono il lato feroce che fa la battaglia di strada, che vuole anche attraverso la musica attirare dei giovani che stanno per un'azione fortemente violente contro immigrati, contro ebrei, ovviamente anche omofoba, ma soprattutto anche contro una popolazione neanche di sinistra, ma una popolazione che non vuole più accettare queste persone che terrorizzano la gente per la strada. Così io nei camerati non vedo veramente una destra, diciamo, che ne so, moderna, come per esempio una destra alla Geert Wilders nei Paesi Bassi, che esplicitamente si dice amico dell'Israele, che rifiuta l'antisemitismo. Non è questa la destra della quale stiamo parlando in Germania. Ecco, perché dobbiamo ricordare, come dire, cari ascoltatori, istruzioni per l'uso, quello che stiamo tentando è un lavoro difficilissimo, fotografare delle tendenze generali in Europa, vi sono movimenti e gruppi che stanno guadagnando consensi popolari, basti pensare a Jobbik in Ungheria, Alba Dorata che ha ottenuto un forte consenso elettorale in Grecia. Stiamo cercando di capire questi gruppi a quali valori comuni si ispirino e perché c'è tutto questo appeal sugli elettori e sulla popolazione o su parte di essa. Quanto vasto è, quanto variegato è, Ambros, il panorama dell'estrema destra, è ancora qui un'altra etichetta, in Germania? Sì, beh, la NPD al momento ha qualcosa come 6.000 militanti, altrettanti sono i cosiddetti camerati, no? che ho descritto prima. La NPD è un po' in tardo quando si parla dei militanti, perché hanno capito che sia la repressione statale dello Stato, sia la resistenza popolare contro di loro diventa più fermo, la resistenza diventa una cosa più popolare, perché per tutti gli anni 90 la resistenza contro il nazismo in Germania era più o meno una cosa della sinistra, anche della sinistra estrema. Sì. Ormai invece la gente proprio che vive anche nelle regioni diciamo deboli della Germania, economicamente deboli, loro non vogliono più che invece di uno stato sociale che spesso non esiste più, i nazisti possono prendersi cura delle faccende della gente. Così diciamo i segni in Germania al momento non sono solo negativi. Poi ovviamente c'è una destra diciamo più borghese che si combatte più che altro contro l'Islam o contro quello che loro vogliono come l'Islam sia capito, no? Perché l'Islam in Germania è una forma di vita abbastanza normale, ci sono i salafisti, ci sono gli estremisti, ma ovviamente è una piccola minoranza dei musulmani in Germania. Quanto la violenza, ed è l'ultima domanda, Ambros, entra in questi gruppi, in questi militanti, quanti episodi di violenza sono riconducibili a loro? Ma tantissimi. Abbiamo nei 20 anni dopo la riunificazione della Germania abbiamo 180 morti, persone che sono stati ammazzati dai neonazisti. Tranne pure, almeno che io sappia, almeno un italiano. Abbiamo avuto il gruppo terroristico NSU che ha ammazzato 10 persone a colpa di pistola, no? Come per terrorizzare diciamo la società. Questo gruppo inoltre aveva anche dei contatti con dei gruppi skinhead in Italia, più che altro nel Sud Tirolo. Sì, tra l'altro c'è anche una polemica, no? C'è un grosso dibattito in Germania sulla scoperta di questo gruppo che per quasi 10 anni ha operato. È uno dei scandali più grandi nella storia recente della Germania, perché noi abbiamo un servizio segreto, un cosiddetto ufficio per la salvaguardia della Costituzione, che poi è diviso in vari uffici regionali. E queste persone ovviamente non hanno fatto molto altro che leggere i giornali e non hanno avuto nessun successo, anche perché questi omicidi dell'NSU prima hanno seguito una pista diciamo mafiosa, hanno pensato che se i turchi si ammazzano possono solo essere altri turchi che hanno avuto una forma di lite economica. Sì, no? Cioè non si pensava che vi fosse questa connotazione xenofoba, insomma, che vi fosse anche una preparazione, un'organizzazione. Adesso si sta cercando di fare un po' di pulizia fra questi servizi segreti e già alcuni esponenti hanno dovuto ritirarsi. In Germania si discute infatti se abbiamo bisogno di un servizio segreto interno che ovviamente non svolge nessun ruolo positivo per la società. Certo. Questa è la fotografia dalla Germania di Ambros Weibel, giornalista del quotidiano Tage Zeitung. Grazie Ambros, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, grazie a te, buona giornata. Ciao. Quale filo rosso lega le esperienze che abbiamo appena sentito in Germania ai raid violenti compiuti in Grecia recentemente e ancora ai gruppi di vigilantes legati a Jobbik in Ungheria? Davvero si può parlare di deriva estremista, di deriva nera? Do il mio buongiorno a Stefano Valenti e Marco Mathieu, rispettivamente segretariato della Commissione Europea contro il razzismo e intolleranza. Valenti, buongiorno. Buongiorno. E Marco Mathieu, giornalista di Repubblica e autore anche del libro Oltre Nero, di cui parleremo più tardi, libro di qualche anno fa, ma che, come dire, ha motivi di interesse di grande, di forte attualità. Abbiamo alcuni minuti, uno e mezzo, no, neanche un minutello prima della borsa, e allora Valenti, le chiedo una fotografia molto sintetica su quello che è il vostro lavoro come Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza. C'è una crescita dei partiti di estrema destra, c'è una crescita di discorsi xenofobi. Qual è il rapporto secondo la vostra commissione? Sì, pronto? Pronto? Sì, se la sentiamo benissimo. E dunque, la commissione è una commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza. Nessun luogo è lontano. Allora, oggi a Nessun Luogo è Lontano, la deriva nera, se così possiamo chiamarla, in Europa, complice la crisi economica, complice il battezzare alcuni nemici, l'Islam, i Rom. Stiamo cercando di capire meglio che cosa lega queste esperienze a così tanti chilometri di distanza. Si è parlato del caso tedesco, citavo prima Jobbik in Ungheria, ancora Alba Dorata, ma ci sono anche i casi italiani, arrivano già i primi messaggi che ricordano ad esempio l'esperienza di Casa Pound, ma quella ci arriviamo. Allora, intanto do nuovamente il mio buongiorno a Marco Mathieu, che è giornalista di Repubblica e autore di Oltre Nero. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. E fra l'altro Casa Pound tu la conosci bene perché l'hai frequentata, il libro è frutto di quella lunga frequentazione e studio. Ma voglio tornare innanzitutto a Stefano Valenti, sperando che la linea ci sorregga. Valenti, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci qua. Allora, ripartiamo, nel senso, quali sono le caratteristiche fondamentali, le tendenze generali che possiamo attribuire alla destra in Europa? Sì, intanto il discorso razzista e xenofobo in politica non è una prerogativa della destra solamente. E quindi diciamo che questi discorsi sono utilizzati anche da partiti mainstream, quindi principali. Questo soprattutto porta a una banalizzazione del discorso razzista, che non trova un controbilanciamento sia a livello di risposta penale sia a livello di risposta culturale. Allora, queste caratteristiche comuni sono, come abbiamo già detto in precedenza, un'ostilità all'immigrazione, un'ostilità all'Islam e un neuroscetticismo diffuso. Chiaramente bisogna fare attenzione ai distinguo, lo ripeto, questa puntata è difficile perché stiamo cercando il filo rosso che lega queste esperienze, sono esperienze diverse, stiamo cercando di capire se esiste in qualche modo una tendenza generale verso cui una parte della politica, una parte del movimento di massa si sta spostando. La condanna dell'immigrato, diceva, la condanna del multiculturalismo, la colpa, la crisi economica. Si sta creando, Valenti, in qualche modo un humus culturale, una base culturale sulla quale si possono innestare azioni violente come quelle che abbiamo sentito in Germania? Beh, dal punto di vista percentuale è difficile stabilire un nesso chiaro. Però è vero che questo malessere del nemico interno è un malessere che va compreso. E quindi questi partiti si prendono carico di questa paura, di questa fobia e la utilizzano per in un certo senso guadagnare democraticamente posizioni di governo. E fra l'altro, insomma, quantomeno in alcuni casi siedono in Parlamento, certamente mirano anche al Parlamento europeo. Grazie Stefano Valenti per questa fotografia, lo ricordo, segretariato della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Jeździły ciągi, kolejki stały pod sklepami, a w tych ludzie bardzo głodni, telewizja pokazywała. Marco Mathieu, la nuova internazionale nera, come hai scritto in questa inchiesta per Repubblica, qual è il filo rosso che lega questi diversi gruppi in paesi così diversi, se esiste un filo rosso? Ma credo che in qualche modo l'abbiate già identificato, proprio nella paura del diverso, nell'odio diffuso verso quello che può insidiare le singole comunità, in un comune sentire quasi, diciamo, anti-europeo. E al tempo stesso non vanno dimenticate però le differenze che portano a sì identificare un fenomeno diffuso in tutta Europa, ma a non darne per scontati i collegamenti o comunque l'obiettivo comune, perché spesso appunto i nemici cosiddetti o gli obiettivi dell'odio razziale e xenofobo, per esempio, sono quanto mai diversi. Li unifica sicuramente un obiettivo facile in un momento di crisi, che il porre le banche, le lobby come causa, sì, di tutti i mali, e al tempo stesso nel locale invece, nello specifico, ripeto, può essere l'Islam, come può essere ancora i Rom o gli ebrei, ecco, questo, ecco. A differenza di un obiettivo comune, esistono diversità in ogni paese. Certo, e assolutamente stiamo cercando, come dire, di non generalizzare, anche se nel cercare delle tendenze è ovvio che una riduzione, una semplificazione si fa, e infatti un ascoltatore immediatamente mi bacchetta, anzi mi taccia di faziosità, perché dice faziosità totale nelle vostre conclusioni, i movimenti di cui parlate sono fanatici estremisti, mentre voi continuate a chiamarli genericamente destra. È chiaro, sono etichette, è molto difficile anche il lessico, no Marco? Cioè, voglio dire, il movimento neonazista di cui abbiamo parlato prima, quello che avevano le scatole con le svastiche e il busto di Hitler, è molto diverso da Casa Pound che tu hai frequentato. Assolutamente, bisogna anche tener conto di differenze generazionali e di elementi aggreganti, e mi spiego subito. Esiste oggi una serie di reti all'interno della rete, quindi del web, che facilitano la condivisione e il mettere delle cose in comune tra diversi gruppi. Esiste un circuito musicale di musica cosiddetta identitaria, che ha comunque le radici nel rock contro il comunismo e nelle formazioni dichiaratamente fasciste inglesi di fine anni 80, che segnarono il passaggio del movimento skinhead alla fase nazi skin. Ma oltremodo non va dimenticato che esiste a livello europeo una deriva nazionalista, populista, come viene indicata in diversi rapporti, che ha portato, come veniva anche detto, ricordato prima, una certa quale accettazione a livello anche talvolta istituzionale di quelli che sono dei fenomeni assolutamente xenofobi, razzisti. E in questo senso, negli ultimi 20 anni in Italia c'è stata in Europa e anche in Italia c'è stata una svolta che ha permesso spesso delle contiguità diciamo quantomeno pericolose. Tengo anche a sottolineare che sempre a livello europeo manca una politica comune in termini sia di repressione, quindi non esiste un coordinamento tra le diverse polizie per affrontare questi fenomeni come un qualcosa di europeo, così come le leggi i diversi paesi sono diverse tra loro, e non esistono le direttive europee che permettono di perseguire questi fenomeni. Non a caso noi abbiamo come Repubblica abbiamo condotto queste inchieste in tutti i paesi europei, arrivando alle conclusioni a cui né le istituzioni politiche né tantomeno gli investigatori hanno i mezzi e le leggi per poter arrivare. Ecco, Marco, si diceva il diverso, lo straniero è il nemico in questa retorica, lo abbiamo detto anche nelle scorse puntate quando abbiamo parlato della questione Rom in Ungheria. Il Rom è uno dei nemici più deboli e più facili forse da attaccare, no? in questa retorica, però anche l'Islam è un altro grande nemico. In alcuni dei gruppi, quindi tengo a precisare, stiamo cercando tendenze generali, stiamo cercando di comprendere se esiste, perché magari non esiste, voglio dire, un filo rosso che lega queste esperienze più o meno violente. Quanto la religione è una leva, è un grimaldello per questi gruppi? Ma lo è storicamente, dopodiché vanno fatte appunto delle differenze, perché nello specifico avete citato il caso Ungheria, che anche ho seguito da vicino, e lì esiste una continuità con quello che sono stati i fenomeni, i partiti, i movimenti della prima parte del secolo scorso, e quindi un certo tipo di aggressione dichiarata nei confronti dei Rom e degli ebrei. Nello specifico in Ungheria Jobbik, che è un partito che peraltro ha una base elettorale che può essere paragonata in termini percentuali quasi a quelli della Lega Nord in Italia, tanto per intenderci, e che a sua volta al suo interno ha la cosiddetta Guardia Magiara, che compie azioni raid in pieno stile razzista. Per fare un esempio dichiarato, Jobbik è legato a doppio filo con Forza Nuova in Italia, che è un'altra formazione che fa un appello anche di tipo religioso, molto diverso da un movimento come quello di Casa Pound, di cui è stato accennato prima, che invece si pone, per così dire, su una base più laica. Abbiamo citato Casa Pound, fra l'altro io qua fra le mani ho il libro Oltre Nero, è un libro sia fotografico che scritto, l'ha realizzato con il fotografo Alessandro Cosmelli, e tra poco apriremo quella che è la parentesi dedicata all'estetica di una certa retorica, no? Quanto è fascinosa per un ragazzo, magari per un ventenne, questo senso di militanza, questo senso di forza, di combattere contro un nemico comune. Però prima hai citato la musica come elemento aggregante, e poi c'è la rete, c'è Facebook. In questa, ripeto, internazionale nera, che lo ribadisco, cari ascoltatori, è una riduzione della realtà, quindi stiamo tentando una missione impossibile quest'oggi. In tre quarti d'ora cerchiamo di fotografare un movimento che è estremamente variegato, che a volte è violento, altre volte non lo è assolutamente. Ci stiamo chiedendo se ci sono degli elementi comuni, se in qualche modo esiste una deriva culturale che diventa poi humus per altre azioni che sono sicuramente condannabili. La rete, Facebook, quanto si parlano queste diverse organizzazioni? Moltissimo, soprattutto in termini di gruppi e di eventi condivisi. D'altronde i social network hanno introdotto la possibilità, che viene molto utilizzata da gruppi di estrema destra, di organizzare eventi e raduni che non sono più soltanto in termini nostalgici per ricorrenze ed altro, ma diventano anche occasioni per organizzare concerti di questi circuiti di rock identitario. Stiamo parlando, per dare un'idea anche dei numeri, perché nella sola Germania si parla di quasi 170 gruppi musicali, oltre 1000 siti web dedicati, e molti di questi hanno contatti con altri paesi europei, dove le differenze ideologiche vengono in qualche modo superate anche dal cambio generazionale. È stato anche documentato, per fare un esempio pratico, la visita di un gruppo riconosciuto neonazista tedesco un anno fa a Casa Pound in Italia, con un rapporto, per così dire, poi pubblicato sul web, positivo, che aveva per titolo Imparare dall'Italia. Dalla Germania ci confermano che sono molti nelle nuove generazioni dei gruppi di estrema destra, più o meno vicini al neonazismo, a considerare l'esempio di Casa Pound interessante in quanto moderno e fuori dai cosiddetti schemi tradizionali, che è quello che affascina di più anche le nuove generazioni. L'Europa in nero, a nessun luogo lontano di quest'oggi, esperienze diverse, gruppi di militanti, gruppi politici che vanno poi a sedersi in Parlamento, che non rinunciano a una retorica, in alcuni casi razzista, spesso xenofoba, e che guadagnano consenso popolare. Ci stiamo chiedendo perché nella puntata di quest'oggi, sicuramente uno degli elementi, la benzina sul fuoco è data da una crisi economica che sta attanagliando, lo sapete bene, l'intero ormai vecchio continente. Allora, se non ci sono i soldi per noi, perché dobbiamo darli ai senegalesi che ci invadono? Questo è un po' uno dei discorsi che è strisciante, ma neanche tanto, si muove dai palchi di alcuni di questi attori di cui stiamo parlando quest'oggi. Volevo, con Marco Mattiè, giornalista di Repubblica, e do il mio benvenuto anche a Sandro Iovine, critico fotografico, direttore del Fotografo. Sandro, buongiorno. Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Che ci ha raggiunto qua in studio. Volevo aprire quella che è un po' la parentesi, il capitolo, se volete, più intrigante, che è quello dell'estetica, no? Vedendo, sfogliando Oltre Nero, il libro che citavo prima, con le foto di Cosmelli, è evidente che esiste una celebrazione dell'estetica. Sandro Iovine, quanto conta, quanto è importante per i gruppi di estrema destra? Ancora una volta è una riduzione, ce ne rendiamo conto, ma per semplicità dobbiamo usarla. Quanto conta per i gruppi di estrema destra l'estetica? Ma innanzitutto farei una suddivisione dell'argomento, distinguendo quella che è l'estetica interna e quella che può essere l'estetica esterna. Intendendo per estetica interna i riferimenti iconografici che si danno questi gruppi e per estetica esterna i riferimenti iconografici che vengono utilizzati per raccontare questi gruppi, come ad esempio nel libro che citavi prima, Oltre Nero. Il discorso dell'estetica e del simbolismo, dell'immagine in generale, è fortissimo nella storia dell'estrema destra, del nazismo in particolare. Cioè, gli esempi che ci hanno dato sia Goebbels sia Speer sono assolutamente fondanti e da essi risale probabilmente tutto quello che è il nostro moderno modo di intendere anche commercialmente l'immagine. Marco Mattiè, quanto è intrigante per i giovani questo mondo, no? Voglio dire, adesso sfogliando ancora una volta il libro che tu hai realizzato con Cosmelli, non c'è un solo militante che non abbia 25 tatuaggi almeno, ha una storia tatuata sul corpo. Quanto conta questo elemento? C'è da dire che, voglio dire, riflette molto anche la contemporaneità dell'esistenza di queste persone, perché stiamo parlando degli anni 2000, stiamo parlando di una serie di linguaggi anche estetici che sono diffusi comunque tra le nuove generazioni. Nello specifico l'elemento che ci ha portato alla nostra ricerca, che era volutamente quella di andare a cercare di comprendere non tanto le ragioni ma le modalità e il perché proprio dell'esistenza, più che l'ideologia o la politica, e quello che abbiamo scoperto è questo forte senso identitario, questo forte bisogno di costruire una comunità difesa in maniera quasi militare, dove appunto la militanza si confonde con il senso di amicizia, di famiglia, e l'estetica ha una parte importante sia a livello corporeo negli sport, nella frequentazione della palestra, piuttosto che negli atteggiamenti e nel modo di vestire. E questa cosa ha comunque un impatto anche esterno, perché non dimentichiamo che a livello, diciamo, di teenager, quindi sotto i 18 anni, sono moltissimi quelli che vengono contati come militanti nelle scuole superiori per le organizzazioni, per esempio, di riferimento per quanto riguarda Casa Pound, soprattutto qui a Roma, nella capitale. Ecco Marco, hai toccato un punto che è quello generazionale. Nella tua inchiesta per Repubblica sull'estrema destra in Europa, quanto è giovane questa deriva nera europea? Molto, molto. Stiamo parlando di molti, cioè diciamo di una frattura generazionale, come se ci fosse un mondo under 30, addirittura under 25, che in qualche modo ha e cerca dei riferimenti nella musica, nella militanza, che può essere anche vissuta attraverso la pratica del tifo estremo allo stadio, piuttosto che nei raduni. Quindi un po' meno aspetti politici e ideologici, e più un senso di militanza che si avverte anche nelle presenze ai concerti. Ne parlavo prima, non dimentichiamoci che esiste un circuito che si chiama Blood and Honor, che è messo al bando in Germania per esempio da 12 anni, che comunque esiste in tutta Europa e che ha gruppi di appartenenza dall'Inghilterra fino all'Italia. Anche recentemente ci sono stati episodi di concerti organizzati proprio alle porte di Roma. E qui insomma si passa poi alla parte musicale. Fra l'altro in questa puntata abbiamo lanciato alcuni brani, presi poi da realtà differenti, dalla Germania appunto alla Spagna. E poi c'è la parte stadio, Marco, Mattia, come tutti i luoghi di aggregazione, lo stadio è un formidabile paradigma della realtà, no? Cioè tutto quello che c'è fuori poi lo puoi trovare dentro, ma irregimentato secondo alcune regole. Assolutamente, ne si è avuta una dimostrazione purtroppo anche durante l'ultimo campionato europeo con gli scontri fortissimi, dove per esempio la componente ultras dei russi ha avuto una parte importante nelle violenze e nelle devastazioni. Si stanno anche un po' cambiando i codici, si erano abituati a pensare agli hooligans inglesi come il fenomeno del pericolo, ci si sta accorgendo adesso che invece sono dei fenomeni addirittura più pericolosi, con delle connotazioni nazionaliste e filo fascista naziste nell'est Europa soprattutto. In Italia il dato forse più interessante di questi ultimi anni da registrare è anche un certo tipo di cambiamento di delle procedure cosiddette di reclutamento. Se c'è stato un fenomeno di infiltrazione dei gruppi ultras da parte di organizzazioni neofasciste tra i 20 e 10 anni fa, negli ultimi anni si cominciano a registrare la presenza di gruppi già organizzati in termini politici, che vanno allo stadio apparentemente solo per fare del cosiddetto tifo e partecipare alle azioni più o meno violente della curva, ma che in qualche modo attraverso un esempio cosiddetto di strada fanno effettivamente del reclutamento. Quindi viene riconosciuta ormai la presenza di questi gruppi e in qualche modo assolutamente accettato, ed è quello che forse diventa il dato di riflessione più importante, sia a livello istituzionale, laddove appunto ci sono partiti di grande presa e con un grande bacino di voti che non hanno mai fatto mistero di un certo tipo di xenofobia, di razzismo, e sono stati in qualche modo comunque accettati a livello europeo, così nei rivoli più estremi delle varie scene politiche nazionali esiste ormai una quasi simbolica accettazione di questi gruppi. Ecco, che un processo che ha accennato Valenti in apertura di trasmissione, Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza, c'è in qualche modo una banalizzazione del discorso, no, di questa retorica, per cui insomma il dagli al diverso sta diventando ormai di uso così comune che forse si sta creando veramente si è alzato in qualche modo la soglia, il livello. Sandro Iovine, come fa un'icona potente come la croce celtica, come la svastica, come questi teschi che si vedono nei tatuaggi? Poi su Facebook posteremo il link di questo libro, ci sono delle immagini molto forti. Come fa a diventare così potente? Come fa un simbolo a diventare un'icona e attrarre così tanto, a piacere così tanto? Perché ha un potere incredibile, no? In questo caso l'immagine. L'immagine è sempre stata utilizzata come fattore di coesione all'interno del coinvolgimento al potere o all'interno del riconoscimento in un gruppo. Il concetto di alterità di cui si è discusso fino adesso, quindi io appartengo a questo gruppo e sono diverso da, e loro sono diversi da me, è un concetto molto, molto semplice, molto basilare, che rientra particolarmente in vigore nelle strutture sociali e politiche nei momenti di grande crisi, per cui c'è un ritornare intorno a dei concetti cui in forma molto più soft e molto più tenue siamo comunque abituati fin dal momento in cui nasciamo. La bandiera, la divisa sono fattori di aggregazione politica e sociale intorno a un simbolo. In questo senso un simbolo efficace, forte, assume dei connotati che poi sono anche molto diversi da quelli che lo hanno originato. La famosa svastica, che per noi significa nazismo, soprattutto se la associamo al fondo bianco e all'ulteriore fondo rosso sotto al bianco, se noi la mostriamo a un cinese, a un giapponese, ti dirà che gli ricorda, la prima cosa che gli viene in mente è naturalmente un tempio buddista, perché il manji, ossia il kanji, il ideogramma che descrive la svastica, è un ideogramma che ha peraltro due valenze e che sono totalmente aliene da tutto ciò che è il nazismo. Anche Sandro cita la crisi economica come formidabile aspetto di sfondo, ma anche di causa di quello che stiamo osservando quest'oggi. Marco Mattieu, ma domanda da $1 milione, ma se togliamo la crisi economica a questi giovani, a questi ragazzi, se togliamo questo terreno che manca sotto i piedi, che cosa succede? I movimenti si sfaldano? Beh, questa certo è una domanda così quasi impossibile rispondere. Io aggiungerei però un elemento che è un'idea di Europa con dei valori effettivamente condivisi aiuterebbe senza dubbio. Faccio un ultimo esempio: oggi l'attuale regolamentazione della UE non permette di negare finanziamenti a gruppi che sono chiaramente xenofobi, come quelli della cosiddetta Alleanza Europea dei Movimenti Nazionalisti, alimentata dal Front Nazionale, che comprende gli ungheresi di Jobbik, il British National Party inglese, i nazionaldemocratici svedesi, eccetera. E questa è solo, diciamo, la cosiddetta giustificazione istituzionale. Poi dall'altra parte invece c'è, rispetto anche ai simboli, a quello di cui si parlava, non va sottovalutato il fenomeno anche di modernizzazione e di contemporaneità di molti di questi gruppi, che vanno oltre e cercano di superare quel tipo di ideologia o di simbologia, come appunto nel caso di Casa Pound, per la quale forse talvolta, non per loro in particolare ma in generale, vale credo anche un attimo la comprensione dei fenomeni per poter effettivamente combattere quello che sono poi fenomeni di violenza e di razzismo e xenofobia. E questa era la fotografia di quest'oggi, operazione ardua, quasi impossibile, speriamo di esserci riusciti. Grazie Marco Mattioli, giornalista di Repubblica, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi. E grazie a Sandro Iovine, che ci ha raggiunto in studio e ci ha aiutato a capire meglio quanto potente può essere un simbolo e quanto può essere aggregante. I titoli di coda, grazie a Massimo Brugnone, Mirel Lucchetti, Carmelo Lauricella alla parte tecnica. Noi ci risentiamo domani per l'ultima puntata.